pronti? Torre. Partito. Ciak. Azione. Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi Le ali della libertà di Frank Darabont. Ritenuto colpevole dell'omicidio della moglie e del suo amante, Andy Dufresne, bancario del New England, viene condannato a 2 ergastoli da scontare nel penitenziario di Shawshank. Una volta dentro, Andy allaccia una profonda amicizia con Red, detenuto tuttofare, e mette il suo fiuto per gli affari a disposizione delle guardie e del direttore della prigione. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere, una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa, nei limiti del ragionevole. Sì, signori. Io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare. Ellis Boyd, detto Red, era arrivato a Shawshank che aveva appena 20 anni ed era uno dei pochi di quella famigliola felice disposto a riconoscere di aver fatto quello che aveva fatto. Prima aveva intestato una bella polizza di assicurazione alla moglie, poi aveva sistemato i freni del coupé Chevrolet che gli aveva regalato il suocero per le nozze. Era andata esattamente come aveva previsto, salvo che non aveva previsto che lei si fermasse a prendere su moglie e figlio del vicino, che scendevano da Castle Hill verso la città. I freni erano saltati e la macchina si era infilata tra i cespugli davanti ai giardinetti del paese a tutta velocità. Chi l'aveva visto aveva detto che doveva andare a più di 65 miglia all'ora quando si era schiantata contro la base del monumento alla guerra civile e aveva preso fuoco. Ellis non aveva previsto nemmeno che lo prendessero, ma lo avevano preso. Il Maine non aveva la pena di morte, ma il procuratore distrettuale si era preso cura di farlo processare per tutte e 3 le morti e di fargli dare 3 condanne a vita, da scontare una dopo l'altra. Si sieda. Ci risulta che lei sta scontando una condanna a vita, è così? Sì, signore. E dopo 20 anni si sente riabilitato? Sì, signore. Assolutamente, signore. Insomma, ho imparato la lezione. In tutta onestà, adesso mi sento un altro uomo. Non sono più un pericolo per la società. È la verità sul mio onore. Il timbro del documento portava la scritta richiesta respinta. Climb out to where you see. Life lasts only one thing. Quando Andy era arrivato a Shawshank nel 1948, aveva 30 anni. Era un ometto esile, con i capelli biondo rossicci e un paio di mani piccole ed abili. Portava occhiali con la montatura dorata. Le unghie erano sempre curate, sempre pulite. Era strano che uno andasse a ricordarsi una cosa del genere di un uomo, ma per Red questo rappresentava la sintesi di Andy. Aveva sempre l'aria di uno che ha la cravatta. Fuori era stato vicepresidente del reparto fidi di una grande banca di Portland. Un bel posto per uno giovane come lui, soprattutto considerando quanto sono conservatrici le banche in genere. E quel conservatorismo va moltiplicato per 10 quando si parla del New England, dove la gente non si fida ad affidare a nessuno i propri risparmi. Andy era stato messo dentro per l'omicidio della moglie e del suo amante. In prigione sono tutti innocenti. O ti raccontano la loro storia allo stesso modo che quei santoni in TV leggono il libro dell'Apocalisse. Sono stati vittime di giudici con cuore di pietra e palle non meno dure, di avvocati incompetenti, di montature della polizia, della sfortuna. Recitano le scritture, ma si vede benissimo una scrittura diversa sulle loro facce. La maggior parte dei galeotti sono gentaglia, incapaci di far bene a loro stessi o a qualcun altro. E la loro peggiore disgrazia è che le loro madri non abbiano abortito prima di metterli al mondo. In tutti i suoi anni a Shawshank erano stati meno di 10 gli uomini a cui Red aveva creduto quando si erano definiti innocenti. Andy Dufresne era uno di loro, sebbene Red si fosse convinto della sua innocenza solo nel corso degli anni. Se si fosse trovato tra i giurati che avevano seguito il suo processo alla Corte Superiore di Portland per 6 tempestose settimane nel 1947-48, anche lui avrebbe votato colpevole. Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno. I fatti presentati dall'accusa, che Andy Dufresne non contestò mai, furono: signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto, sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di Bourbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui due amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora. Un colpo ciascuno alla tempia. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso. Quello che c'era di buono in lui lo dava solo un po' alla volta. Quello che c'era di brutto se lo teneva chiuso dentro. Se mai avesse avuto una notte nera nell'anima, come disse uno scrittore, non lo avreste mai saputo. Era il tipo d'uomo che se avesse deciso di suicidarsi lo avrebbe fatto senza lasciare una lettera, ma non prima di mettere in ordine tutti i suoi affari. Fu condannato a passare il resto della sua vita a Shawshank, o la parte più importante. 5 anni dopo cominciò a presentare domande di libertà condizionale, respinte con la puntualità di un orologio, nonostante fosse un detenuto modello. Ottenere un permesso di uscita da Shawshank quando avevi stampato sul foglio di ammissione omicidio era una roba lunga. Lunga come un fiume che erode una roccia. Red si ricordava perfettamente la prima volta che Andy Dufresne si era messo in contatto con lui per avere qualcosa. Non fu quella volta che aveva voluto Rita Hayworth, però. Quella venne dopo. In quell'estate del 1948 si era presentato per qualcos'altro. La maggior parte dei traffici di Red avvenivano nel cortile e fu appunto lì che avvenne anche quello. Il cortile era grande, molto più grande di tanti altri. Era un quadrato perfetto, 80 metri per lato. Il lato nord era il muro esterno con una torre di guardia alle due estremità. Le guardie lassù erano armate di binocolo e fucile. La porta principale era proprio sul lato nord. Le porte carraie per i camion erano sul lato sud del cortile. Ce n'erano 5. Shawshank era un posto di traffico. C'era la fabbrica di targhe automobilistiche e una grossa lavanderia industriale che faceva tutto il lavoro del carcere. E c'era anche una grossa officina di autoriparazioni, dove i compagni meccanici riparavano i mezzi della prigione, del municipio e dello Stato, per non dire delle macchine private delle guardie e dei funzionari amministrativi. Il lato est era uno spesso muro di pietra pieno di finestrelle. Il braccio 5 era dall'altra parte di questo muro. Sul lato ovest c'era l'amministrazione e l'infermeria. Shawshank non era mai stata affollata come tanti altri penitenziari e nel 48 era piena solo per 2/3 delle sue capacità, ma in ogni momento potevano esserci da 80 a 120 detenuti nel cortile, a giocare a football o a baseball, ai dadi, ad abbaiarsi addosso, a fare traffici. La domenica il posto era ancora più affollato. Di domenica sarebbe potuta sembrare una festa di paese se ci fosse stata qualche donna. Email audiogrammi @radio24.it. L'agente Coleman alla palazzina di... L'agente Coleman. Fu una domenica che Andy andò da Red per la prima volta. La gente diceva che era già destinato a trovare grane. Uno di quelli che diceva così era Boggs Diamond, uno che era meglio perderlo che trovarlo. Andy non aveva compagno di cella e in giro si diceva che era lui che preferiva così, anche se le celle singole nel braccio 5 erano poco più grandi di una cassa da morto. Sono Andy Dufresne. Ah, il bancario ammazza moglie. Perché l'hai fatto? Che cosa? Non li ho uccisi io. Ti sei ambientato in fretta, eh? Qui dentro sono tutti innocenti, non lo sapevi? In giro dicono che sei un pezzo di ghiaccio. Mi hanno detto che puoi procurare qualsiasi cosa. È una mia specialità, mi diverto a far felici gli altri. Puoi procurarmi un martello da roccia? Che cosa? Un martello da roccia. Che? A che ti serve? Sono affari miei. Non avrei fatto domande se avessi chiesto uno spazzolino, perché so che uno spazzolino non può essere usato come arma, un martello sì. Un martello da roccia è lungo più o meno 20 centimetri, sembra un'ascia in miniatura. Un'ascia? Per i minerali. Minerali. Colleziono minerali. Almeno lo facevo fuori di qui, ma vorrei ricominciare, certo, su scala ridotta. O forse vuoi sfondare la testa a qualcuno con quel giocattolo? No, figurati. Non ho nemici qui dentro. No? Aspetta a dirlo. Le sorelle ti hanno messo gli occhi addosso, specialmente Box. Le sorelle prendono la gente con la forza, è il loro passatempo preferito. Se fossi in te, mi guarderei alle spalle con molta attenzione. Tranquillo, anche se finisco nei guai non lo uso il martello. Allora ti serve per scappare. Magari ci fai un buco nel muro. Quando vedrai com'è fatto, verrà da ridere anche a te. E quanto si paga un pezzo del genere? $6-7 in un negozio specializzato. Direi che siamo sui $10. 10 va bene. Se ti beccano, non mi conosci. Fai il mio nome, non avrai più niente qua dentro. Neanche un pacchetto di gomme, sono stato chiaro? Sì, sì, chiaro. Grazie. Red. Mi chiamano Red. Red. Lui annuì e si allontanò. Red vide che un sacco di gente li guardava, probabilmente anche le guardie nelle torrette stavano guardando. Gli fece avere il suo martelletto. Lo tenne nella sua cella per una notte ed era proprio come l'aveva descritto lui. Non era uno strumento buono per evadere, eppure Red aveva un presentimento. Se piantavi quel piccone nella testa di un uomo, quello sicuramente non avrebbe mai più sentito una radio in vita sua. E Andy già aveva cominciato ad avere dei fastidi con le sorelle. Red sperò che non fosse per loro che aveva voluto il martello. La mattina dopo, 20 minuti prima che scattasse la sirena della sveglia, Red fece scivolare il martello da minerali e un pacchetto di camel al vecchio Ernie. Lui se lo infilò nel giubbotto senza una parola e Red non vide più quel martello per 19 anni, quando era così consumato che non era rimasto quasi niente. La domenica dopo, Andy gli si avvicinò di nuovo nel cortile. Non era un bello spettacolo quel giorno. Il labbro inferiore era gonfio come una salsiccia, l'occhio destro tumefatto e mezzo chiuso, e c'era un brutto taglio ondulato lungo la sua guancia. Vorrei potervi dire che Andy si batté con successo e che le sorelle non gli fecero niente. Vorrei tanto potervelo dire, ma la prigione non è il mondo delle favole. Non disse mai chi era stata, ma noi lo sapevamo benissimo. Le cose continuarono così per un po'. In galera la vita scorre sempre uguale, un anno dopo l'altro. Ogni tanto Andy aveva dei nuovi segni sul viso. L'avevano preso di mira. A volte riusciva ad avere la meglio, a volte no. Questa era la vita di Andy e lui la affrontava da solo. Credo che i primi 2 anni siano stati peggiori per lui. Se le cose fossero continuate in quel modo, non so quanto avrebbe resistito. Erano proprio guai con le sorelle, quelli che stava avendo, ma non ne fece mai cenno. Across the ocean, find wild love in the forest and the field. I'll be blue skies, I'll be wide open in the moment. That's where I need to be. There's no sidewalk, there's no smooth talk, just a long walk to where I'm gonna be. It's such a fine line situation. I've got patience. I've been flowing for the ocean. I'm tripping all over myself. Falling down now. I adore you, but you're leaving me mess. I confess, I caught you caring, caught you sharing like the rest. It's such a fine line situation. I got patience. Le sorelle le chiamavano Checche Toro o Finocchi da Cella. Non so perché, ma immagino che a parte il nome non c'è differenza. Erano per la società della prigione quello che gli stupratori sono per la società che sta fuori dalle mura. Solitamente avevano condanne lunghe per crimini brutali. Le loro prede erano i giovani, i deboli, gli inesperti o, come nel caso di Andy Dufresne, gli apparentemente deboli. I loro campi di caccia erano le docce, il corridoio ingombro dietro le vasche industriali della lavanderia, a volte l'infermeria. In più di un'occasione lo stupro avveniva nella cabina di proiezione, grande come un gabinetto, dietro l'auditorium. Quante altre volte quel gruppo lo attaccò? Non lo so, ma di certo Box Diamond smise proprio quell'estate nel 1948 improvvisamente. Fu una strana cosa. Box fu trovato nella sua cella malconcio dalle botte una mattina all'inizio di giugno, quando non si era presentato all'appello per la colazione. Non avrebbe mai detto chi era stato, ma facendo il lavoro che faceva, Red lo sapeva che un secondino lo puoi pagare per fargli fare praticamente tutto tranne che procurarti una pistola. Chiaramente un lavoro del genere doveva essere costato un sacco di soldi e Andy Dufresne, quando era entrato, aveva $500 e nel mondo regolare era un banchiere. Uno che capiva meglio di tutti in che modo il denaro può diventare potere. Fu circa 5 mesi dopo che Andy chiese se Red poteva fargli avere Rita Hayworth. La conversazione ebbe luogo nella sala del cinema durante un film. Andy manovrò in modo da mettersi vicino a lui e a metà film si chinò un po' e gli disse: Red, era solo per dire o puoi procurare veramente tutto? domanda. Fidati, Andy, di solito non ho mai deluso nessuno. Tu che cosa vuoi? Rita Hayworth. Che? Puoi trovarla? Ci vorrà un mese. Io non ho sentito un mese? Una parola su di lei. Sì, anche di più. Non ce l'ho già pronta infilata nei pantaloni, mi dispiace dirtelo. Ah, volevo che fosse una sorpresa. Ma te la trovo. È stata una sorpresa. Tranquillo. Grazie. Per $1 potevi avere il manifesto piccolo di Rita, per 2,50 il grande, quello di 1,20 m. Andy volle quello grande. I got a feeling of the blue, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy. La direzione del carcere è al corrente del mercato nero, se per caso ve lo state chiedendo. Certo che è al corrente. Lo permettono perché sanno che una prigione è come una grande pentola a pressione e da qualche parte ci deve pur essere una valvola per scaricare il vapore. Di tanto in tanto a Shawshank facevano una perquisizione e Red finiva in isolamento, 2 o 3 volte l'anno. Ma quando si trattava di cose come i poster, chiudevano un occhio. Vivi e lascia vivere. Quella mattina mi arrivò anche un grosso carico di merce. Sigarette, gomme americane, una bottiglia di whisky, carte da gioco con donne nude, un sacco di roba. E naturalmente l'articolo più atteso, la divina Rita Hayworth. Fu di nuovo il vecchio Ernie a portare il manifesto di Rita Hayworth nella cella di Andy, la 14. E fu Ernie a portare a Red il biglietto, scritto con la calligrafia precisa di Andy, con una sola parola. Grazie. Go on, go on, go on and find your light now. Go on, it's alright. We all feel something similar sometimes. Oh, oh, oh, oh, sometimes. Oh, oh, oh. And don't wait, don't fear, and don't work too hard, don't worry, 'cause you're here, you're here. Go on, go on, go and do those things you've always wanted to, my friend. When the morning comes, our dreams don't have to end. It's true, I'll be there when I can for you, my friend. Oh, I'll be there when I can. Un po' più tardi, mentre i detenuti si mettevano in fila per il mangiare del mattino, Red lanciò un'occhiata nella cella di Andy e vide Rita appesa sopra la cuccetta in tutto il suo splendore balneare, con una mano dietro la testa, gli occhi socchiusi, quelle morbide labbra di seta semiaperte. Era messa sopra la cuccetta dove lui potesse vederla di notte, dopo il buio in cella, al chiarore della luna proveniente dal cortile. 5 settimane dopo che aveva appeso Rita, il vecchio Ernie passò a Red una scatoletta bianca attraverso le sbarre. Era un regalo di Andy. C'erano 2 pezzi di quarzo in quella scatola, tutti e 2 accuratamente lucidati. Erano stati tagliati in modo da parere 2 legni lasciati dal mare. C'erano piccoli granelli di pirite di ferro sopra, come pepite d'oro. Se non fossero stati così pesanti, si sarebbero potuti usare come un bel paio di gemelli da uomo. Erano così simili da sembrare proprio una coppia fatta apposta. Quanto lavoro c'era voluto per creare quei 2 pezzi? Ore e ore dopo il buio in cella, questo era chiaro. Prima tagliargli e dargli forma, poi l'interminabile lucidatura e rifinitura. Ma fu solo molto più tardi che Ellis capì davvero quanto poteva essere perseverante Andy Dufresne. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Nella primavera del 1949, le alte sfere decisero che... Il tetto della fabbrica di targhe deve essere ripavimentato. Ho bisogno di 12 volontari per una settimana. Come sapete, un incarico del genere comporta certi privilegi. Era un lavoro all'aperto. E maggio è un mese perfetto per starsene un po' fuori da questa fogna. Si offrirono volontari più di 100 uomini. Wallace Johnson Unger, Ellis Redding. Ci credereste? Io e alcuni miei amici eravamo tra i fortunati. C'erano 6 guardie al lavoro, tutte scelte in base all'anzianità. Era bello quasi come una settimana di vacanza, perché invece di sorvegliare un mucchio di detenuti sudando nella lavanderia o nella fabbrica di targhe, si stavano facendo una vera e propria vacanza di maggio al sole, standosene seduti a chiacchierare con la schiena appoggiata al basso parapetto. Uno di loro era un tale che si chiamava Byron Hadley, ed era lui ad amministrare veramente il penitenziario, perché il direttore, Norton, era solo un uomo di paglia. Il terzo giorno che i detenuti erano sul tetto, Hadley stava parlando con un'altra guardia. Insomma, questo avvocato mi dice, suo fratello ha lasciato un grosso capitale. Era nel petrolio, ha fatto $1,000,000. $1,000,000? Sì, è incredibile il culo che hanno certi pezzi di merda. Santo cielo, e ti ha lasciato qualcosa? 35,000, è quella la mia parte. Per la miseria, è fantastico, è come vincere la lotteria. Stronzate, cosa credi che farà questo governo del cazzo? Si mangerà la fetta più grossa della torta. D'accordo, dovrei pagare le tasse, però ti restano sempre un sacco di soldi. Ma certo, abbastanza per comprare un'auto nuova. E poi devo pagare le tasse sull'auto e le riparazioni e i figli che ti chiedono in continuazione se li porti a fare un giro. E se alla fine dell'anno sbagli a calcolare le tasse, fioccano multe salatissime. Te lo dico io, questo governo... Andy Dufresne, che era rimasto fino allora a spargere catrame con un grosso pennello, era a meno di 5 metri di distanza. Lo buttò nel secchio e si avvicinò al punto dove erano seduti Hadley e le altre guardie. Hai fatto proprio un bel regalo. Andy! Poteva lasciare qualcosa. Vuole farsi ammazzare. Continua a incatramare, avanti. Tutti si irrigidirono e Red vide una delle guardie portare la mano alla fondina. Che fai? Fermo, non ti muovere. Uno dei tizi sulla torre di guardia batté sulla spalla del suo compagno e si girarono tutti e due. Per un momento Red pensò che Andy sarebbe finito sparato o manganellato, o tutte e due. Invece disse molto pacatamente ad Hadley: lei si fida di sua moglie? Molto divertente. Lei è sicuro che sua moglie non la tradirebbe per nessuna ragione al mondo? L'hai voluto tu. Spostati, Bert. Questo coglione sta per avere un incidente. Vuole buttarlo giù dal tetto. Perché se si fida può salvare tutti i suoi $35,000. Cosa hai detto? I suoi $35,000. Sì, allora? Può averli tutti. Che cazzo dici? Fino all'ultimo penny. Sarà meglio che ti spieghi. Se vuole tenersi tutti i soldi, li dia a sua moglie. Il governo consente una donazione, una tantum al coniuge, fino a $60,000. Mi prendi per il culo? Esentasse! Esentasse. Non le possono toccare neanche un cent. Tu sei quel bancario che ha ammazzato la moglie, non è vero? E chi mi dice che non mi vuoi incastrare? Magari vuoi che finisca dentro anch'io. È una cosa legale, può chiederlo all'ufficio delle imposte. È anche inutile che gliel'abbia detto. Sono sicuro che sarebbe riuscito a scoprirlo da solo. Ma certo, cazzone, non ho bisogno che un bancario figlio di puttana mi dica quello che devo fare. Questo lo so. Ma le serve qualcuno che le prepari i documenti necessari, un professionista. Altrimenti potrei prepararli io. Risparmierebbe molti soldi. Se mi procurerà i moduli che le dirò, le farò il lavoro. Me ne intendo di queste cose. Le chiedo solo 3 birre a testa per ciascuno dei miei colleghi. Colleghi, questo è buono, davvero buono. Credo che un uomo che lavora all'aperto si senta più uomo se può bere una birra ogni tanto. E certo è una mia opinione. Signore... Che avete da guardare, Bertosi? Tornate al lavoro! Muovetevi! E così, improvvisamente, era Andy ad avere il gioco. Un buio. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way down. Oh, as I should. Andy fissava Hadley con quegli occhi freddi, chiari, calmi. E in quel momento non c'erano più soltanto quei 35.000. C'era un uomo contro un uomo. E Andy semplicemente lo piegò, nel modo in cui al braccio di ferro un uomo forte può piegare il polso di uno debole. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way down. Oh, as I should. E ecco come avvenne che durante il penultimo giorno di lavoro i detenuti che lavoravano sul tetto della fabbrica nella primavera del 49 si misero seduti alle 10 in punto di mattina e bevvero birra doppio malto gelata a dovere, per gentile concessione dell'aguzzino più spietato che abbia mai messo piede a Shawshank. Bevetela finché è fredda, signorine. Quella colossale testa di cazzo riusciva persino a sembrare magnanimo. Stavamo lì seduti, il sole ci picchiava sulle spalle e ci sentivamo liberi. Era come se stessimo asfaltando il tetto di casa nostra. Eravamo i signori dell'intero creato. Quanto a Andy, rimase tutto il tempo seduto in disparte, con uno strano sorriso stampato in faccia, e ci guardava bere le sue birre. Sedeva accovacciato all'ombra, con le mani penzolanti tra le ginocchia, osservando gli altri e sorridendo un po'. È sorprendente quanti uomini erano in quella squadra di lavoro quando Andy Dufresne affrontò e vinse Byron Hadley. Credo che un uomo che lavora all'aperto si senta più uomo se può bere una birra ogni tanto. Insomma, se mi chiedete di rispondere chiaro e tondo, se sto cercando di raccontarvi di un uomo o di una leggenda che si è costruita attorno all'uomo come una perla attorno a un granello di polvere, devo rispondervi che la risposta è a metà strada. Quello che so per certo è che Andy Dufresne non era come Red o come nessun altro avesse mai conosciuto da quando era entrato a Shawshank. Portò dentro $500 infilati nel bagagliaio posteriore, ma in qualche modo portò dentro anche qualche altra cosa. Un senso del suo valore, forse, o la sensazione che alla fine avrebbe vinto lui. O forse solo un senso di libertà, perfino dentro quelle dannate mura grigie. Era come una specie di luce interiore quella che si portava in giro. Quella luce l'aveva persa solo una volta, e anche questo fa parte della storia. Fine primo tempo, il secondo tempo de Le ali della libertà, domenica prossima alle 20:15. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.